siamo a posto, mi? Sì. E la ventolina da tirato le cuoia, dai. Ha fatto e poi si è fermata. Proprio è ferma, Comunque c'è da dire che questo alimentatore non scalda. Non scalda, non c'è modo di farlo scaldare, a meno che proprio non gli metti 25 ampere di assorbimento, cosa impossibile. Non scalda niente, anche toccandolo, niente. E quindi ventolina non ventolina, comunque se la posso cambiare la cambio. Se la trovo la GBC da fusare, oppure la tolgo da un computer. Insomma, se la posso cambiare la cambio, perché ci vuole comunque, dai. Ecco, mi sono a casa, ho avvertito mia zia della perdita, infatti le è arrivata una bolletta dell'acqua un po' più salata e non capiva come mai. E le ho detto che c'è una perdita un po' come un rubinetto aperto a metà, un po' copiosetta è la perdita. Quindi ha detto che appena possibile, poi tanto domenica torna a Sassari, lascia la campagna e torna a Sassari. E quindi ci dedicheremo tutto, mettere a posto anche quella casa, mettere a posto il vascone, eccetera. Ho detto guarda, ormai è inutile ripararla mille volte, poi il sole quella spacca quella plastica, proprio la spacca, la rende fragile, ti conviene cambiarlo proprio. Va bene, eccomi qua. Vascone, serbatoio, quello che c'è sul tetto in plastica, in metallesia. Sì, è in plastica, non so cosa sia, polietilene, polipropilene, quello di plastica, sì. L'avevo riparato già, ma non c'è niente da fare. Gli ho detto va cambiato, tanto non riesci a tapparlo, a meno che cosa ci rifà una colata di plastica fusa sul foro, boh. E non è detto che tenga, al limite ho detto lo cambi, lo metti nuovo, così almeno sai che è nuovo. E per il sole, tu immagina il sole di tutta l'estate e la primavera, quanto lo spacca, cioè lo rende, sai, duro, croccante, fragile. E va bene, già la aiuterò io, dai. No, si è spaccato quello da cambiare, se è in plastica, bruci, se è in vetro resina, allora già si può cambiare, già si può riparare, se no quello da cambiare, capito? No, è plastica, polietilene credo che sia, PET. Proprio brachica, brachica. Ecco la plastica dura. I serbatoi dell'acqua sono, ce l'abbiamo anche noi. Questi sono gli autoclavi, capito? E vabbè, lì vai alla RIT o da Cusi e lo compra nuovo. Da quanti litri è? Non lo so. Dunque, sai che non so, comunque, credo fosse lo standard comunque, non so se sia 500 millilitri, insomma, beh domanito è. Quanto è alto, più o meno? Non te lo so dire, ma credo sia un millilitri, sì. Anzi, sì, potrei dire con sicurezza che è un millilitri. Sì, perché, ma qual è quello blu? Quello blu celeste, quello lì? No, grigio, colore grigio, grigiastro. Forse prima aveva un colore, ma il sole l'ha scolorito proprio. Poi si vede che è sicco, no? E il sole tende a fare la plastica, un po' la crepa, come quando lasci una bacinella al sole tra l'estate e poi ti si rompe in mano. Si cristallizza quello. Qui sarà da 1000-1500, sicuramente. Bisogna vedere quanto di larghezza. Quanto è alto, ma di solito sono da 1000-1500 qui. C'è neanche da 2000 però. Va bene. E quindi niente. Non entra nessuno. È presto ancora, dai, sono le 5.21, vabbè, 5.20. Stamattina ho fatto una prova con Franco, che mi ha messaggiato, era tra Olmedo e Sassari, credo forse al QTH lavoro, no? E ha provato cercare una posizione buona con la macchina per me. Ed è arrivato, quanto era? 7, è riuscito ad arrivare 7, cioè, no, prima era proprio 3-4 nel QRM. E poi è entrato Valerio a salutare anche. È entrato Valerio, dai. Che ore saranno state? Le mezzogiorno, credo, una cosa del genere. Forse a mezzogiorno e mezza anche. No, io sono rientrato per Arbo, ma non ho fatto 3:30. Stavo chiacchierando e poi ho acceso come fa, messo le 4 così sono andato a chiamare un 1 e ti ho risposto e vabbè buona giornata anche oggi. Acqua non se ne parla, per carità. Guarda, io stasera avrei voluto lavare la macchina, no, in modo posticcio, solo acqua mia, solo una spruzzata di acqua per levare quella terra che c'ha sopra, però ho paura che la lavo oggi, domani, vabbè che è solo acqua mia, non è che mi costa molto, non è che domani e dopodomani piovesse e siamo punti a capo. No, ma se piove non piove acqua sporca, se piove piove acqua pulita. Infatti io ho deciso, se piove, con la moto sotto il porticato la metto in mezzo strada qua, nel piazzale, almeno la lavo, e poi la rimetto sotto il porticato e la asciugo. Eia, mia, adesso si è ripresa la ventola, mia. Sta facendo questa, beh almeno sta funzionando però. L'avevi lubrificata. Sì, ma non è servito a nulla. Poi sai quando quei carboncini si consumano, non so se sia addirittura brushless, senza spazio, il fatto sta che forse è troppo sporca, ma non si può aprire la ventola nel centro, non si può proprio smontare, non credo. E vabbè, la cambierò, già si troverà una ventola simile, dai. Tolta un computer anche, Anzi adesso come lo ricordi devo smontare tutto quel computer. E, diciamo, ce l'ho in corridoio da tanto, da mesi, per non dire da anni. Ritolgo tutto quello che si può salvare, scheda video, hard disk no, che è partito, insomma lo spolpo di tutto, quello, tutto quello che si può togliere glielo tolgo. Il Natalino l'ha procurata la scheda video di quel computer. Ah boh, ha chiesto a Luca, ma non so se Luca gliel'abbia procurata ancora. Vediamo a vedere cosa era, se si può. E se può mettere qualche un'altra italiana in gioco. Non so, io quando mio stavo andando male, lo volevo dare per metterlo a posto, poi ho detto che fa una cosa, trovarmene uno usato, io buono, me l'ha preso lui, era Lenovo, tutto nuovo, Lenovo, tutto nuovo, e adesso è perfetto. Eia, Lenovo cos'è? Cinese, no? O giù di lì? A me piacerebbe molto prendere un Asus. E come lo dico io lo prenderei, sì, avendo i soldi da 600-700 euro. Cioè il più avanzato, il più veloce, in modo che se lo aggiorni ci avrà sempre abbastanza RAM, abbastanza scheda video, capito? Prendendolo di classe media invece poi dopo 2-3 anni, insomma dopo qualche anno già c'è troppo poca RAM, troppo poca scheda video. Non va bene, ma tanto soldi non ne ho e quindi non le prendo. Vabbè, no, questo è buono, velocissimo. Non mi dire com'è perché non lo so neanche io, Luca lo sa, però è un bel veloce. L'ultima generazione, proprio alla grande, funziona, che è una meraviglia. E i computer, se tutti lo trattano come te e me, io lo posso accettare. accende una settimana due volte, fidati, a volte manco l'accendo tutta la settimana, infatti vado a vedere, a volte ci sono 200-300 messaggi, boh, di chi che fa leggere io, clicco, cancella tutto, elimina, vai, ciao. Tanto è tutta pubblicità. Io mi trovo bene con lo smartphone, vedi? Puoi navigare, puoi leggere la posta e mandare posta, puoi vedere video su YouTube, insomma alla fine è un piccolo computerino che fa quasi tutto, dai. Va bene, poi se voglio masterizzare, vabbè, già c'è il computer da tavolo lì. Da tavolo, quello il portatile, dai. Se devo fare qualcosa di particolare, convertire video, quelle cose lì, ma ormai non ne faccio più. Non ne faccio più di quell'attività. Era bello comunque usarlo. Trasformavo i DVD in DVX o viceversa, da DVX a DVD. Riuscivo a togliere le protezioni sia ai film che sono protetti, no, quando li affitti, e sia ai CD, li toglievo le protezioni e mi facevo la copia. Ah? Addirittura, vabbè, quando uno è esperto sa quello che deve fare. No, io no. Cioè, addirittura, guarda che c'è su internet, un cacciarami sempre, un sito dove puoi vedere tutte le partite in chiaro, praticamente tutte quelle che danno su Mediaset Premium e Sky, li puoi vedere lì in chiaro, sul telefonino. Sì, uno me l'hanno detto, il sito, non mi ricordo, Relogia, non mi ricordo com'è, un nome del genere, già il genere, no? Vabbè, ma tanto, non sono così sportivo, dai. Ok, ma vediamo sempre a qualcuno, se no, pazienza. Sì, sono indeciso se uscire o no. Sarei dovuto andare anche da Lidl a guardare un paio di cosette, perché è uscito un nuovo catalogo, io non ce l'ho. Quello per la macchina, dargli una spruzzata così di acqua. Boh, però il corpo mi dice, a futtidini, state bene sdraiati. Io sono stato stamattina, tra l'altro sono andato a fare quella visita e boh, pure la sera non esco, non manco se mi baghi, assolutamente, proprio mi piace starmi a casa, capito, la mattina purtroppo esco perché la fanno pulizia eccetera, sto mette il piede, una volta mi sistemo il cane, lo porto in giro, ma poi quando rientro all'una, mezzogiorno e mezzo, a volte anche alle 11, metto qua, ho il computer, non fare niente, e vabbè, pazienza, passerà, vediamo se c'è Giulio, ieri non è entrato, Giulio c'è. Ehi, ho provato a chiamarlo, sento un bip doppio in TMR, credo fosse lui. Però non ha risposto nessuno là. Giulio, ci sei? Quando hai chiamato, stavi chiamando lì, hai fatto l'appello, col portatilino, col box, l'antenna interna, non quella della finestra, l'antenna interna, in gomma, devi mettere il segnale. Eia. Il tetto è una gran cosa, dai. Sì, potrei comunque fare così, visto che riempire quel portabrelloni, riempirlo d'acqua, diventa bello pesante, mettere il palo lì, è fatto apposta, no? C'ho anche un paletto, paletti, sai quei tubi da tenda, no? I tubi per infilare le tende, ce l'ho cromato, in acciaio cromato, ferro che sia, ferro cromato lungo 2 metri, è un palo leggerissimo, mi ci metti l'antenna in punta, sempre che la compri, perché troppe cose voglio io, troppe cose, ma non ne ho voglia, salgo lì e ed è pur sempre un tetto, non è come stare al piano terra, al piano rialzato, capito? È bello, si vede tutta la zona industriale di Porto Torres, quando il cielo è limpido, oggi è un po' di foschia, c'era, ma... Va bene, va bene. Natalino, ci sei? È presto ancora, dai, forse alle 6:30. Ebbene, Leoncino com'era, tranquillo? Sì, tranquillissimo. Tu, una gran chiacchierata oggi, due fesserie, no, c'è un certo sul caffè, poi andato via perché dovevo andare a fare una spesa, e mi sono trattenuto un'altra mezz'oretta, ho trovato un paio di persone che conoscevo, e poi me ne sono rientrato. Eia, così si fa? Si va, si piglia un caffè, ma anche una cosettina così, un campare, un martini, poi si va via. Come qualcuno che va lì, si installa e ci sta tutta la sera fino a notte. Ah? Antonello, ci sei? Pomponio, sei uscito dal coma? Lui dice che è solidale lui. Dagli appuntamenti lo chiamano al telefono, sono stati 10 minuti sotto casa sua telefonando, tu almeno rispondi al telefono, dici va, non ne ho voglia, scusa, no, beh, da solo, sono ancora in coma, capito? Invece non ha risposto né a me né a Giuseppe, l'ha chiamato anche Giuseppe. Eia, Milomi, lo saluto, Milomi, mamma mia. Rientravo per fare praticamente il mese di dicembre, lo dovrei lavorare, ma non lo lavoro. Non lo lavoro, no, non mi interessa. Me lo faccio a casa, almeno per il primo anno, per la prima volta mi faccio Natale a casa, già ne ho fatto Natale a lavoro. Ciao Antonio, mi ha fatto piacere sentirti, dai, ci sentiamo anche dall'altra parte ogni tanto, ma qua è più fattibile che mi trovi. Ciao, sì, con Filippo ci siamo visti, ci abbiamo preso il caffè, abbiamo parlato un po' di tutto. Tu mandami gli eventi, poi adesso già sono più libero le domeniche, quindi già ci faccio un salto, dai, a farmi vedere. Ciao, un abbraccio Antonio, grazie per essere entrato a salutare. Avanti Marco. Ciao Antonio, buona serata, sta chiudendo, buon tutto, alle prossime, entra più spesso se puoi. Ehi Antonio, fai, tranquillo, quando vuoi siamo qua noi, te lo sai che io sono sempre qua su 10, ciao, un abbraccio Antonio. E quindi Marco, ti terminava già? Sì, già che ti dico. Vabbè. Sto decidendo se andare o no, se andare o no, poi passano 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, un'ora e non esco. Certo, sarei voluto uscire prima, ma ho fatto l'errore di stare così, mi sono fatto un po' di pennichella, stando sveglio più che altro. E si fa tardi, perché non mi piace uscire, preferisco uscire il pomeriggio e tornare qui alle 6, 6 e mezza, capito? Invece di uscire più tardi. No, io la sera non esco io, Marco. Sto a casa, ancora mi devo abituare più a stare, a impegnare la mattina, capito? È da poco che sono a casa, quindi mi devo impegnare la mattina, adesso sto uscendo, così vado a fare la spesa a mia moglie, commissione, eccetera. Però non passa mai, non passa mai, mamma mia. Quindi stamattina mi è passata un po' più in fretta, però non è che puoi farlo tutti i giorni, capite? Mi piace a me stare buttato così, dove sei tu, capito? Non c'è stato un evento particolare, che avevo promesso che andavo a trovarla, sono andato, però no, non mi va. Niente, mi finché sono la mattina alle 8:30, no, per fare segni, prendo il caffè, sigarette, un'occhiata al giornale, poi rientro alle 9, mi prendo il cane, porto in giro il cane, sino magari alle 9:30, alle 10, e poi me ne rientro a casa. Se c'è qualcosa da fare a casa la faccio, se devo uscire a fare come sia mia moglie la faccio, però sono poche cose, capito ancora, mi devo organizzare, vai, piano piano già mi organizzo, almeno passare la mattinata. Zappare zappadù, io posso venire lì a sedermi sotto l'albero al fresco. Allora stavo dicendo a mia moglie, infatti stamattina sono andato a trovare un amico che era da tanto che non andavo a trovarlo, c'è un circolo e mi sono trattenuto lì, ho trovato un sacco di amici, cioè amici, oddio, gente che conosco, insomma, quindi parlando ci è fatto mezz'ora e mezza, ma adesso è entrato a casa. Oh, già mi piace, adesso mi organizzo, cioè il canale a pesca ce li ho sui Massarda. Se mio voglia domani me le preparo, le controllo, insomma, i mulinelli, se sono inchiorati, se si possono usare. E la mattina infatti me ne vado a pescare. Una volta mi sistemo il cane, verso le 8:30, alle 9, scendo giù a Porto Torres. Me ne vado a pescare. Non manca ammazzare il tempo, Elio, se no cosa cavolo fai? Una rottura di scatole, mamma mia. Vabbè, avanti Marco. Eia, ciao Elio. Elio, una domanda, ma quel baracchino adesso cosa copre? Per caso i classici 240 da 25, dimmelo tu, dai. Ciao Marco, buonasera anche a te. Non lo so cosa copre, ti direi che non ancora di là, ma non so, ma penso di sì, tra le 25 e sai perché? Perché quell'apparato nasce per i 10 metri, no? Quando lo abiliti per la 27 dovrebbe fare 25, 615, 28, 305, che andrebbe già bene, ma sai, se uno vuole usare anche 10 metri, soprattutto tu che sei l'animatore, no? Allora si può fare quella programmazione e fare, alzarlo di frequenza a partire più dall'alto, tipo da 26,3 fino ai 30,105, capito? Tutto lì. Ah, capito, no, no, ma sai, no, ma io non dicevo usare l'audio, usare l'audio in quelle frequenze, dove non li altri, come non sapevo passare con l'altro, ma penso che faccia 25, o sì, l'ho pensato anche la radio è buona, comunque confermo che il micro trimmer per la M c'è scritto AM mod, quindi lo trovi sotto guardando le manopole verso di te, lo trovi sotto il trasformatorino che c'è a destra, c'è il trimmer con scritto AM mod, è quello lì, va bene. Vai Claudio, dai, cosa stavo dicendo? Boh, non me lamentaci. Va bene, va bene. Io l'altro giorno ho provato il Galaxy, ma la laterale è molto precisa. Precisa, perfetto, diciamo. Va bene. E anche quello già va, come si dice, in 10 metri. Funziona perfettamente. Io, beh, ma lui, sai, te l'ho già spiegato, Marco, che fa attività amatoriale, cosa usi, barchino in 10 metri. Non fa, sei costretto che non hai niente, va bene, ma se c'è le radio HF, sono troppo rumorosi, i baracchini, luci. L'altro giorno stavo ascoltando, te l'ho detto, con il 440, che già, insomma, una radio un po' selettiva rispetto al 140. E 10 metri per non accendere l'altro, c'avevo questo. Ma poi ho visto che c'era questo molto interessante. Ho acceso il Licom Abyss, dovrebbe essere 27 e 440, c'è un Abyss, Marco. Se vuoi ascoltare bene, seguire bene le cose, non c'è il radio come Cristiani per fare, per ascoltare, dicono, ascolti, sì, per carità, però no, non è mai come ascoltare con una radio seria, digitale, eccetera. Ehi, ehi, adesso sono curioso di sapere come sono questi 991, l'FT450D, che piace a me, in una forma diversa dagli altri. Ehi, tutti sono col DSP reale, insomma. Poi vabbè, più professionali sono le radio, più dispendiose sono le radio, o meglio ricevono, mi spesso. C'hanno filtri, controfiltri, ehi, voglia. Bene, bene. Sono proprio indeciso, però vedi io come sono. Sono sempre così, colà, vado, non vado, vado, non vado, poi alla fine passa la serata e non vado. Ascolta, ci vado domani, dai, ci vado domani, tanto non cambia niente. Non cambia niente. Prima infatti, cosa cambia? No, beh, io ho ceduto tutto con gli SP. 991, boh, un po' così. Non so, 450, lì. Una bella radio, funziona bene. E dico, quanto è il 140, è così, però funziona molto bene. Il cos'è? 7003 mi pare, quella è, la stanno vantando tutti in HF, piccolina ma molto sincera, non costa neanche molto. Il 1003. nessuno che vuole entrare sul canale 10, tutti ascoltando tanto. Ma poi sul VT non stiamo parlando, in PMR nemmeno. Siamo noi solo che stiamo tenendo un po' il canale su, dai, vediamo. Ehi, se entra qualcuno bene, se no pazienza, non succede niente. Dunque sì, domani esco nel pomeriggio, così c'è ancora luce, sai. Vado a lavare la macchina sperando che il tempo regga, perché se non regge non faccio nemmeno la fatica di andare a lavarla. Non ha dato più, c'è neanche domani. Sembra che abbia dato un po' di pioggia domenica, ma se la pioggia che ha fatto l'altro giorno, proprio una pisciattina, ma no. Deve piovere forte, però mi piace la pioggia, però che non sia temporale, capito? Non trovo una rottura di scatto, se invece piove normalmente, che puoi parlare alla radio, che non ci sono fulmini, tuoni, quindi la pioggia normale, bella anche forte, che ti piace stare a casa, proprio, capito? Stare in radio, chiacchierare. Allora sì, ma quando sono temporali, che non puoi parlare manco alla radio perché è pericoloso, devi staccare antenne, alimentazione, tutto. Alla fine poi sei dentro casa, non sai cosa fare, capito? Eia. Dopo mi metto la felpa, un po' che c'è un po' di freschetto in maglietta. C'è freschetto, ci sono, quanti sono qua? A vedere 19 gradi dentro, però maglietta ancora è troppo poco, ci vuole la felpa. Io Pomponio, vivo sei, ti sei svegliato dal coma, ci sei? Aspetta che sono al telefono al colino. Franco, certo, ciao, buonasera. Eia, ciao Fra, siamo io e Claudio che è al telefono adesso. Ti ho detto delle prove di stamattina. Eia, ricordati, Santiago 7 era, no? Sì. E 7, anche 7 e mezzo mi hai dato, eh. No, ma l'autosufficienza l'ho preso oggi. Eia, ben entrato, oggi c'è un bel po' di silenzio anche in PMR sul 20, boh. La gente non ne voglia. Va bene, pazienza, se non c'è nessuno, va bene. Sopravviveremo, mi. E l'ho fatto anch'io, ma che domanda che ho portato in giro. Ehi, lo farò una chiamata. Giulio, ci sei? Va bene. Pomponio, si è sentito, né in PMR né in baracchino, ma che ieri era un po'. Così, dai. Ma chi è lui? Ubriaco. Maia. Oh, anche io ieri ho pestigliato, ma non a quei livelli, no. Ehi, va bene. Vediamo quando riesce a entrare. Mi ha posto guardando altre cose. Qua il computer, niente di nuovo, dai. Ti informi sempre, rimani sempre aggiornato. Va. No, notizie così, forum, cipira di amatori, su Roger K, ci bazzichi. Ma sì, ogni tanto qualche cosa la leggo, quando mi serve qualche informazione, dai. In genere, qualche argomento l'hanno già trattato, quindi lo becchi sempre. Ehi. E anche lì ci sono i sacenti che si scornano a vicenda. C'è quello che dice una cosa, l'altro lo segue in tutti i fui, in tutti i cosi, ha sempre, deve ribattere quello che ha detto quello. Mamma mia, quando inizia così è assillante. E ognuno ha le sue teorie. Quindi anche questa l'abbiamo tirata al massimo lui la radio. Neanche questa è satura, no? No, non satura. Quindi anche questa, dovrebbe essere uguale, cambia un pochino, un po' di potenza questa, cioè. Ma mi sta abbassando un po' la voce. Vediamo un po'. Va bene. Ma ecco qual era l'apparato che volevo dire a Claudio, il Kenwood TS50. PS50, appena entra glielo dico, quello piccolino, mi sembra baracchino, veicolare. Ma io ho visto qualcosa, non mi ricordo le sigle però, poi quando vai a vederli sono parecchi abbastanza piccoli. Eia. Perché vuole fare i soliti modelli più grandetti, no? Relativamente grandi. Però avevo fatto tempo fa, tanti anni fa, questo TS50, e sembrava un baracchinetto, no, per la macchina, no? Display a cristalli liquidi. E ogni tanto mi piaceva come aspetto, dai. Una cosa carina, chissà quanto costava nuovo, mamma mia. E cosa copre come frequenza? Beh, tutta la banda amatoriale in HF, 80 metri, 40 metri, 20 metri, non mi ricordo come si chiama, 15 o 12 metri, 10 metri, poi magari espanso copre anche la 27, può darsi, Con qualche modifica, vero? Sì, ci sono sempre le modifiche, le limitazioni, ma poi diventa banda continua, cioè copre tutto da 1,8 ai 30 MHz, tutto. Perché poi ci sono anche le bande VARC, capito? Bisogna considerare anche quelle, bande VARC, eccetera. Sono degli apparati, però io preferisco il cable classico da base. Il 440 è bello, il 430 è bello, sono anche più filtrati, sono già migliori dal 140, però anche quelli ormai hanno fatto il loro, sono rumorosi come apparati, hanno fatto un po' il loro tempo, dai. Ce ne nuovi, silenziosissimi, insomma, più filtri, più tutto. Ma più cari. Giustamente più avanzato è il modello, più a roba, più si paga. A me piacciono sempre i veicolari comunque, io avevo l'FT857 Yaesu quadripanda, faceva tutta l'HF, i 50 MHz, la V e la U, in tutti i modi di emissione, AM, FM, banda laterale, tutto faceva. E ti dico di più, che faceva anche, cioè non è che si fermava ai 30, continuava, copriva tutto dai 30 ai 50 e fino ai 56 MHz, capito? Come dire, da 1,8 ai 56 MHz copriva, più la V e la U. Molto. E di su cosa viene usata come frequenza, oltre i 30? No, lì non è roba nostra, è assegnata al Ministero della Difesa, non è roba che possiamo usare noi. Ci sono i 43 MHz dove parlavano i tassisti, ma mi pare che la siano abbandonata anche quella. Poi i 50 MHz sono amatoriali sempre, dai 50 ai 52 mi pare, o dai 50 ai 51, mi pare gli avevano espanso anche la banda ai radioattori, gli avevano dato un MHz in più, ma è così. Poi 70 MHz sono sporadici, li danno solo, o li davano solo a certi periodi dell'anno, non so perché, ma una banda così, dai, o ce l'hai sempre o non ce l'hai alla fine. È fatta frequente e frequente, ogni tanto le cambiano, tutte queste tappe, e ecco, tra un po' portano via, come si chiama, mi sembra 700 MHz dalla televisione, li danno ai cellulari per la questione del 5G. Eia, quali hai detto? Quali megahertz? Credo sui 700, però non detto male. Sì, perché le compagnie telefoniche hanno fame di frequenze, capito? Anche intorno ai 470, insomma quella zona lì, dice che bramano molte frequenze in modo da espandere tutte le 5G, 4G. Poi gli operatori si stanno moltiplicando sempre di più, quindi... molti sono virtuali, le compagnie, poi c'è le linee telefoniche, sono, mi sembra, 4 in tutto, Wind, TIM, Vodafone e 3. Sì, diciamo che gli altri sono... collegati come l'Enel, no, c'è Enel Energia, tutte le, però le linee sono sempre quelle dell'Enel alla fine, capito? Bene, bene, bene, bene. Ma io, Claudio, ci sei? Sei entrato? Ah, Fletcher, sì, non mi pare dell'amministratore, un bagaglio. No, paga nulla. Lui fa, sì. Ciao, Claudio. Che non sarà, Marco, che toccherà cambiare i televisori tra qualche anno perché diventeranno obsoleti. Ma io ho sentito anche che volevano cambiare lo standard proprio di trasmissione. Lo standard di trasmissione, quindi adesso bisognerà o pigliarsi il decoder nuovo fra qualche anno con il nuovo standard, perché sai, il servizio di iniziale incorporato non servirà più, bisognerà mettere un decoder esterno come al solito. E purtroppo ma, siamo stati per 50 anni con la TV analogica, grazie a Dio, andava bene, adesso cambiano sempre tutte le cose. Poi anche le radio FM mie 88-108 diventeranno entro breve digitali, così si dice, quindi tutte le autoradio che prendono in analogico, le radioline, tutte da buttare. Ogni giro di soldi, ormai ci usano come banco, ma quando siamo soldi, una piccola variazione, un cambiamento, e tu devi pagare. Sì, sì, la seconda generazione del digitale, i nostri televisori non la leggeranno più, la frequentarie, non va più bene. O cambiamo tutto il televisore o mettiamo un decoder, uno, ce ne vorranno 4 o 5, in base a quelli che c'hai a casa. Sì, mamma ce l'ha incorporato, io ce l'ho esterno perché quello interno era uno schifo, saltavano sempre i canali, invece ne ho messo uno che non vale lo schiaffo, no, proprio una schifezza sembra, eppure prende i segnali bene. Vabbè, il servizio Grundig, ormai Grundig ha fatto la storia, dai, ma non può stare a livelli di LG e di Samsung, ormai Grundig è una marchetta secondaria, dai. Io ce l'ho tutti LG, e mi trovo bene la verità. E poi di buono c'è che la LG ti rilascia gli aggiornamenti sul sito di LG Italia, quindi tu con una chiavetta ti riscarichi e li attacchi dietro all'uscita a livello USB. Il televisore si aggiorna automaticamente. Ah, pure. Mamma ha un Samsung, ce l'ha da vari anni, Vari anni. Un 42 pare sia, funziona sempre bene. Per lei sai che vede, non è che ha la vista perfetta, quindi va bene grande per lì. A parte lì non distingue una videocassetta dal super dal come si dice, dal Full HD, non la distingue la videocassetta, capito? Addirittura. No, sulla Samsung devi portarlo da Enel, diciamo, si prende una settantina di euro per aggiornarlo. È così. Una volta gli ho portato quello della LG, ma era anche graffiato, e non era neanche aggiornato. Quindi l'ho chiamato la LG Italia e gentilmente mi ha inviato l'aggiornamento da scaricare sulla chiavetta. Eia. No, la verità, noi non li abbiamo mai aggiornati, però i nostri erano già di qualche anno fa, soprattutto quello di mamma, no? Di qualche anno fa non mi pare che non erano previsti aggiornamenti, che io ricordi. Adesso invece fanno gli aggiornamenti via software, no? Capito? Eia. Ma sempre che gli aggiornamenti non introducano bug o problemi, Capito, perché sennò bisogna avere sempre la possibilità di tornare indietro rispetto all'aggiornamento, si può fare? No, sul televisore no, una volta che lo aggiorni, perché tu quando gli infili la chiavetta, se non è più, se è più recente lo avverte, se è più vecchio o uguale, neanche lo caga, voglio più dire. Eia, Natalino ci sei? Natalino, ma oggi sono tutti, va bene, già entrerà prima o poi. Io non ho messo degli appunti. solo le lunghezze per quelle frequenze. Ma io dico sempre, una bella antenna sul tetto o sul terrazzino, DMR LPD, tipo la Diamond PC202, che è da tarare tagliando gli stili, almeno è una 2x5 ottavi, capito, verticale. Mi prudono le mani, ho voglia di comprarmela. Quanto gasta? Come? Dico, non sarà carino, no? Una bandina? No, 50 euro più la spedizione. Poi ci sarebbe quella corta, 38 euro per spedizione. No, 39. La Sirio CX440 è corta 59 cm, è una J-Pole, funziona anche lì. Però sai, l'altra è una 2x5 ottavi, mentre quella è una 3 quarti d'onda. E rende di più 2x5 ottavi, capito? Poi se la metti sul tetto non ne parliamo. Non vi giù sul tetto. Diciamo le antenne, teoricamente vorrebbero tutte sul tetto, da aperte, libere. Bonsoir. Ciao, ciao Marco, non so più se sia un ascolto appena acceso, che me ne sto alzando. Si sente dalla voce. Mi parli del diavolo e spuntano le corna. Cornuto sarai tu. Ho toccato poc'anzi, proprio 2 minuti fa, Natalino ci sei, no, c'è anche Claudio, Franco e Claudio che fra poco rientra. Scappa. Ti volevo dire Marco, ma come ti arrivavo io nella monitor? Sempre il solito? Oh, l'ultima volta era 7, non mi ricordo Natalino prima quando arrivavi, non me lo ricordo. E vabbè, comunque ti arrivò bene, va? Sì, ma siamo vicini, non fa testo, capito? Okay. Ma tanto con noi devi parlare, quindi noi delle 10, così ho capito. Eia, eia. Sul DMR c'è la telecamera, Marco? Sì, ma è sul terrazzino, sul balcone, molto in bassa, molto bassa, molto bassa, risulta al primo piano dalla parte opposta. Io sono al piano rialzato sulla strada, però poi diciamo la strada scende, insomma come se fosse al primo piano, dai. Capito? E già va benino così, ma pensa a metterla al tetto, è una cosa strepitosa sul tetto. Per fare la prova tipo quella di stamattina mi si arriva a Sassari. Io ho troppi 50 metri di cavo e non fa metterla sul tetto, perché per quanto metta il cavo più buono del mondo perderebbe sempre troppo segnale, troppi dB. Aspetta, mi stanno chiamando al telefono, non mi prendi al telefono. Eia. Eia. Tutti al telefono sono, altro che baracchino, eh? Aiuto, Claudio, non pagare. Ehi, vabbè, oggi non ne voglia nessuno. Beh, hai dormito, Natalino? Io sono riposato, senza dormire però. E anche io non è che ho dormito fino a poco fa. Vabbè, volevo uscire, invece è sfumata la cosa, dai, pazienza. Già mi rifaccio domani, se ne ho voglia. Se non piove. Anzi, è meglio non uscire, ma che piova. Ma non piove mai, si fa una spruzzatina ridicola e poi smette. Claudio, sempre ho al telefono, o c'è gente, mamma mia. Antonello Pomponio, ci sei? Ti sei ripreso? Ti sei ascolto? Ieri Pomponio è ceduto ieri. Ma cosa fa? Ubriaco. È anche fragico, ubriacone fragico. Quello già lo sapevo che è un ubriacone fragico. Sì, non si è sentito da ieri notte, che era in evidente stato di alterazione. Dai, sicuramente è venuto mal di testa, sai, dopo ti senti male, no? E vabbè, dai, rimango in ascolto, tanto non c'è nessuno, dai. Nessuno, quando riprenderanno a parlare rientro io, dai Natali. Parla con me. Con uno vuoi parlare? Eia, prepara il filtro che domani vengo a prenderlo, se no non posso usare lineare, sono disperato. Fa una cosa, quanto costa quel filtro? Ordinatelo, ti do i soldi, perché se no se ti do il filtro a te, cazzo, non posso modulare io. No, no, io voglio quello, perché è uscito bene, magari lo ricompro e non va bene. Compratelo tu, no? Non hai incassato ormai, quindi noi abbiamo incassato il 2, oggi è, no? Te l'ordino io, mi dai i soldi e te lo ordino. E io ordino, a quanto è costa? Ti do i soldi, cazzo, e me lo ordini, cosa vuoi ti dica? Pittina. Dopo controllo, vediamo se ce l'ha ancora il venditore che lo vendeva prima, ma mi pare di no. Comunque controllo, dai. Guarda, lo vende sia la Midland sia la RM Italy, però chissà perché la RM Italy mi ispirava di più, lo sai. Infatti controllo dalla RM, lo sai che quelli Midland siano tipo quelli ZG e quando la metto cazzo crepo tutti i televisori del quartiere. Esco più forte magari. No, no, è uguale. Quello della RM, quello è identico. Però chissà perché, ma cos'è caduto adesso? Il cellulare, mannaggia. Aspetta, cellularino piccolo, dai, ma questo già è indistruttibile. Ecco qua. Cosa stavo dicendo? Sì, chissà perché preferisco l'RM Italy, se lo trovo, dai, già, no, è identico, te l'ho detto. Cambia solo l'etichetta, mi. Sarà fatto in Cina, come al solito, loro si limitano a mettere l'etichetta. Infatti. Ma. Ci sono, Anch'io ci sono. Oh, Natalia. Allora, mi vuole defraudare del filtro anti-guai, così non posso più parlare. Tu ordinavalo, perché io devo farmi quella carta, capito? Là, per mettermi i soldi nella carta, non voglio fare quella che pigliavo lo stipendio, capito? Quella della banca non la voglio fare. Una prepagata ti fai? Ce l'ho, ma c'è un problema lì. Non me ne vogliono fare un'altra, bisogna disdire quella che ho e così me la rifanno nuova. Con chi ce l'hai quella lì? Quella dell'automatica che fa come PayPal. PayPal, sì. Ma più di una non ne puoi avere, capito? Se no me la stavo facendo l'altro giorno quando gliel'avevo detto pure a Marco, solo che me l'hanno rifiutato, se non vi dico questa qui, devo andare a quel tabacchino famoso, perché non sono tutti che ce l'hanno. E che farà qualcuno la tua moglie? Come? A farla a nome di tua moglie un'altra. A nome di mio? No, non lo voglio fare a nome di mia moglie per un motivo. Lo devo fare a nome mio il buco. Allora, era un'idea, poi mi dici tu, dai. Ma ti stavo dicendo stamattina, quando stavo rientrando al lavoro, mi ha attraversato un cinghiale, e dietro di me c'era il cacciatore, io gli ho indicato, vieni cinghiale, lo vedi? Se non decidi, ho sparato una fucilata, ma no, era troppo lontano già. Una pistolettata, il fucile è troppo lungo, con quella pistola che io lo strollisco la cineggi, si ruba a capo. Ma già era aperta la caccia oggi, sì? Non lo so se è aperta, non ce l'ho il calendario venatore, io non ci vado più a caccia da immemorabile tempo. No, comunque, è una bella bestia, una bella bestia. Penso sui 50 kg, 60 kg di carne. Cinghiale bello ambroso era quello. Io già ce l'ho il fucile a pompa, però se mi trovano mi arrestano. Questo va bene. Sicuramente stava scappando da qualche battuta, lui lì si stava rilassando. E allora, adesso li frego a questi qui. E invece, vabbè, comunque, se l'ha scampato lo stesso, dai. al cinghiale, la carabina se mi trovano mi arrestano, la pistola non se ne parli. La pistola non si può fare a caccia, forse sì. No, no, anche se hai il porto d'armi non la puoi portare. Allora sai, se tu stai andando a caccia, se ti trovano la pistola sono cavoli tui. Mi ricordo due fucili di diverso calibro, può essere? Sì, sì, i fucili ne puoi portare quanto ne vuoi, se hai il porto d'armi da caccia. Però la pistola presso no. La canna liscia però, o anche rigata? No, no, adesso ci sono più canne rigate che lisce, da quando ha piato piede questa cosa di avere la canna rigata. Ma cosa fai al cinghiale della canna rigata, che è troppo potente, gatta, è pericolosissima. È troppo agitata. Oltre a quello, vi la dà la rimbalza, a me. Ti credi? È pericolosa come arma, a me. Sì. Continua a camminare, sia anche sull'acqua addirittura può rimbalzare. Lo so, a me non me lo dire, già le so queste cose, che roba da chiudi. Allora, più a Dubiso, poi vanno con calibri esagerati, ma ti pare che a casa cinghiale devi andare col 30-06, ma fa il 308. Il 30-06 già, capo, secondo me lo prendi rovini la carne. Quello è per gli elefanti. Ma la fuggiami, sai? Guarda che non sto scherzando, c'è gente che ha la 30-06. Cioè, una volta ha sparato un amico mio alla 30-06 e un cinghiale gli ha rovinato, mezzo cinghiale ha rovinato. E 223 come sarebbe? 223 Remington è troppo piccolo per il cinghiale, però li fa genegge, si rubai, li fa genegge di brutto. Per essere sicuri che l'ammazzi subito ci vuole il 308 Winchester, quello va bene. 223 e il 556 in atomi. Lo so. Allora, Salì, eccolo qua. Costa 25,50 euro più 8,50 di spedizione, totale 34 euro. Incamia tu, vabbè, domani passa e pigliateli, intanto ordina luce. Oppure se non ce li hai, piglia i soldi e poi l'ordine. Veglia. Però Natalia, io ti avevo già detto, non fare carte che... Gio Marie, ciao. Non fare carte strane, vai al Monte di Paschi, che c'è in Piazza Italia, ti fai una carta MS Spider prepagata. Una Spider prepagata, paghi mi pare 10 euro all'inizio e funziona benissimo anche all'estero, invece di fare queste carte strane, capito? E se andiamo insieme qualche giorno lo facciamo, perché ecco, se devo ordinare qualcosa non la posso ordinare. Ma è Magica, me lo stai dicendo, io questa me l'avrei già fatta 10 volte la carta prepagata. Ehi gatto, io stavo camminando col baccolino a me, bello a me, già lo sai. Basta, ma sei una mimola a me. Oh, cosa vuoi? Mamma già sta venendo a portarti. Maledizione soave, mimola di dove già ma. Picchialo la pompa. Tu vedi, andare in bagno magari. No, no. No, non lo so, io vedo qua, ci mancherebbe. La moglie non è tornata ancora, perché la sola la pompa lì. Tu non mi fido, sei chi siete di freddo e se esco magari mi fa male tornare la gamba. Però col baccolino, allora, guarda, non piangevo per la vergogna. Infatti avete parlato in due, e allora vuoi trovare, vuole, dai. Eia, no, dicevo che io lo dico apposta, mi picchiavo la pompa, ci mancherebbe. O c'erano Natalini col nervo di bue. Ma io già lo so che tu sei un briacone fragico, è per quello che non ti... No, a me preoccupa Pompogno che proprio non si è sentito da nessuna parte, né in PMR, nulla. Sarà in coma etilico profondo. Ma già ne è passato di tempo da ieri notte. Oh, si è sentito poco bene. Come chi fuma. Non devi fumare, Natalino, non fumare, fa male alla salute, fa male anche al portafogli. Ti addosso dati all'alcol. Io sono ammazzato prima. Pagata, 5 euro al giorno, ci rimetti di dentro. Come Franco? Ho la prepagata, 5 euro al giorno, i soldi delle sigarette. E ci fanno la ricarica nel giro di pochi mesi. Sì, sono soldi tutti in fumo, Natalie. Sono soldi in fumo, nemmeno io fumo, no, non mi piace, non mi piace. E poi fa male la salute, mamma mia. Tutto il catrame che va nei polmoni. Poi diventano neri i polmoni, mi sembra pece. Come si chiama pece? Sì, la pece nera. Sì, catramina, catrame. Mio collega è impettonato, l'altro giorno abbiamo tappato un buco di nell'asfalto. Ma Claudio, c'è valato lo fumo, Claudio. Sempre al telefono, pare un centralino quella camera lì. Vedrà che a quello anche con le pensioni gli rompono le balle. Seia, secondo me sì, perché non si ricordano le procedure. Claudio, un favore, dimmi come si fa questo, quello. No, lui ha detto che ci butta il telefono lavorativo lì, il numero del lavoratore, ce lo butta proprio, non vuole sapere più niente. Cazzo, ma è una cosa che non si credi. Ehi, se non cominciano a mettergli qualcuno appresso a imparare, sono cavoli, poi. Cazzo, c'era il padre di un amico mio dalla banca, lo telefonavano, cazzo, perché lui era funzionario, no? Anche quando era in ferie lo disturbavano dalla banca. Era il credito italiano il padre di questo amico mio, ed era funzionario, no? Cazzo, chiamavano pure quando era in ferie, poveraccio. Sono gli sbagli che si fanno in queste aziende, che non si formano i ragazzi, da in modo che poi perdono le forze di questi anziani. Infatti, cazzo, non so quanti giorni gli hanno messo appresso a mio zio prima di andarsene. A imparare. A che giorno trova la cura? Non si usa nulla. Se non ha fatto cantieri, La gavetta lì va. Proprio il muratore da fare per essere buono il geometra, se no non serve a nulla. Sa fare solo i calcoli, leggere i progetti, ma in pratica non sa fare nulla. Buono era quel geometra che c'ho lui ultimamente, l'architetto pure, quelli si prestavano, erano gente che lavorava a conto suo pure. Picchialo quel cane. Eccomi qua, scusate che ero al telefono, poi c'era sta rompi balle all'amministratore. Ancora vivo è l'amministratore, sì. Molto buono. Allora, poi sono tutti ammazzati quando vengono a chiedere soldi, capite? Gli obrienti, soldi qui, soldi qua, ma non vai a far culo. Quando sono craiana è che vuole di là, sì. Beh, è stato il fuoco mio. C'è un sacco di spese qua per quello che sto andando. Lui non manca mai, no? Dappertutto. Beh, certo. Ma sai che sei indipendente qui? Sì, sì. Meno male, a me uno si salva. Per secondo. Buonanotte. Sono andato a prendere il telefono, mi leggo un po' di messaggi, dai. Mi è già mano da mezzo qua adesso. Non ho capito, Marco. Già mi addormento adesso. Così, addirittura. Che cosa? Marco si sta addormentando, Ma non ci sono discorsi, non ci sono chiacchiere, che già vai. Boh. Stamattina ho fatto chiamata, però non ci ritrovo, abbiamo fatto un collegamento dalla zona di lavoro di Arcone, vicino a un metro. No, stamattina sono uscito, lo so, per trovare un amico, poi sono rientrato e niente. Era già l'ora di pranzo, va. Senti un po' valido di radio, aspettavo, il segnale era bassissimo, ma la radio era fortissima. A chi sentivi? Oggi da via, Marco. Anche la Maiava c'è. Vannino di Sorso. Che la Maiava c'è. Ma quando stai così, ti è morto, non c'è dialogo. Non ci sono discorsi, arrivi. Mi fa un po' male sto col cane. Tanto già vai a casa. E me Vannino. lasciala così, lasciala uscire, tocca nuda. Per la M è perfetta, va benissimo, segnale Sinov, ottimo per la truppa. No, no, va bene così, non la stanno, va bene così, è perfetto. No, sono con Franco, però non lo senti perché sicuramente c'è, non ti sente perché c'è un'antenna piccolina. Poi c'è Natalino, non so se lo senti, Marco, ma sono tutti ai varioni, non ha le gare, va a vedere. Senti il Vannino la sorsa, no? No, assolutamente, proprio zero di nada. Ma io lo sapevo. Se non metti l'antenna su. Non coppi, non coppi, non coppi, cosa metti di chi? Va bene, Marco, lo senti il Vannino, vuoi parlare? Ti stai caramagliando? Nulla, Marco si è caramagliato di tutto. Natalino? Sono qua, sono qua. Vannino, lo senti? No, non avevo guardato, non stavo seguendo, va, quando è entrato. Lascialo così, lascia. Non lo senti, Natalino? Oh, Vannino. Vannino, mi senti? Già sono io, basso, sto uscendo, la colpa è mia. E preso si è, ma è bassa potenza perché c'ha l'antenna bassa e qui ogni tanto qualche righina anche lui, lo tu hai scatto la musica uscì, l'antenna bassa. Franco invece c'ha un'antenna tipo di macchina, dai, un po' gioco per fare due chiacchiere con lui, no? Tanto bellissimo i semi, fanni, mi andava bene, andava bene. Bene, è bella la modulazione, è bella. La modulazione è perfetta, Vanni, qualizzata bene. Io l'avrei lasciata così per la M, va benissimo. Sembra che stai usando un 60, qualcosa del genere. È bella corposa. Alla radio mia stai usando. Bene esce, bene esce. Io non usavo il 920 della Yaesu, no, non usavo il 27, c'avevo un microfono della Kenwood col connettore Yaesu, l'MC60 col connettore Yaesu, usciva una cannonata, pari a un Kenwood, capito? Escono bene gli Yaesu, quelli grandi, i seminoretti o seminannuti, quelli grandi già escono bene in AM. Natali, ehi Natalino, yeah. Non senti a Franco, niente niente lo senti fra Vannino. Nulla, nulla. Guarda se sente lui adesso, boh. Ho messo un po' di vitamine, ma intanto è inutile se non sento a lui. Non lo senti a Franco, Vannino? Ehi, Natalino non fa vita. Impegnato in chivi, a casa. No, però fa entrato Antonio da Itti, a salutare. Magari niente lì che ne siete un paio è più che sufficiente. No, sono positivi i picchi, c'è un problema la scelta di uscire. No, sono in fede fino al 20 o oh, non mi c'è 20 o oh, 30 boh, novembre. Sempre giù c'è di nuovo. Ah, ci avevano ripreso con un altro contratto, col contratto a termine. E vedo tutti. Tanto guarda, più si lavora, più meno se ne ha. Alla fine siamo a figlia di Alluci. Prima anche a casa e fosse meglio. Avanti Franco, anche se non senti Avannino, le prendi. Ma che zona è di Sosso, lo sai tu? Centro storico lui è. C'è come antenna? Antenna buona? Centro 9 qua, c'è la Mantova. Non so nulla proprio, non è un fastidio, guarda, mi prudono le mani quando non sento nessuno. Fra, te l'ho detto. A me il problema è quello, capito? Fino a quando siamo noi, fra le due chiacchiere va bene, poi entra altra gente. Non sento i messicini più bellissimi, capito? Quindi se tu metti una di quelle antenne leggere leggere sopra la tua antenna della televisione, va benissimo, no, non penso ci siano problemi. Vedi tu? Sicuramente andrà meglio sicuramente. No, va meglio alla grande perché quella è una buona zona anche per Sosso, per quello cose, eccetera. Si è aperto, capito? Metti un'antenna piccola, qualcosa che ti consenta di ricevere bene, perché con quell'antenna di macchina cosa vorresti dire? Non fa. A me mi era venuta la disperazione, io se non sento, capito? Non mi piace. Poi è così, noi dobbiamo superare i tetti delle case che ci sono qua di fronte, poi c'è, ho tutti i palati da 20 metri attorno. Il segnale qua in città è buono, sempre la nuova storia qua. 9 più, capito? 9 più, però per ascoltare fuori è un casino, non fa. Cosa vuoi ti chiamare? Natalie. Al telefono. Ah, al telefono sì, ho capito. Avanti, Vanni. Parito di radio, ma chi non la città come te la prima? No, no, aumenta. Ma sei educato, ti ho detto lascia stare che andava bene, ti sei buttato già. Non ti sento di radio. Io, lascia stare così che va bene. Ah, lo spinotto quello dell'equalizzatore. No, già va bene, se attacca dove già funziona, Franco non ti sente, c'è questo antennino piccolo, non sente. No, non lascialo così libero come era poco fa, va bene. Cosa dico, intanto l'accendo l'ICOM, lascia stare accesi, abboni di tutto, non che sono sempre qua, no? Non è che mi sposto a qua, capito, quindi alla fine non si via nulla, non torrete nulla. Non ho capito neanche io che è. Amores, no. Guardate, non me lo ricordo. So che c'è, ma mi pare che sia questo mese, sia novembre. Finalmente, chi non muore si rinvente, ciao Vanni. Bisogna chiedere a... forse Franco lo sa. Oh Fra, dimmi, questa sagra del vino, amore, se ti risulta tu che giri. Aspetta che guardo internet. Aspetta che guarda che Franco c'è il calendario, vedo gli agia. Se ti desidera di avere la sagra del vino di nuovo, se avete come te. Ciao, vedo, buonasera, avanti. Pippi, agli stessi a vedere, e vabbè, qua c'è un casino, asciuga capelli, vado a fare, ci non prendono accidenti. Secondo te all'8 e mezzo, niente, beh, sono andati tutti a pappare, sono solo io, nascosto, ti ho detto, ho sentito il bip e sono venuto qua. Cosa oggi? E allora, massimo vado a mangiare anch'io che è pronto, altro che sono in radio, adesso spengo tutto, me vado a pappare, poi ci guardiamo un po' in TV e poi ci andiamo a nanna. Ehi, ancora non mi sono abituato oggi, mi sto svegliando presto, capito? Mi sveglio presto la mattina e se ci ho visto in giro.